Let's start what we have come into the room to do. Please cut the fuck. To do. Fuck. Do. Fuck. Do. Fuck. To do. www.askthebenny.com. Benvenuti, benvenute, battito madre, stagione 2, episodio 1, siamo in diretta, forse. Ci siamo, ci siamo. E Radio Exalgi, ci siamo, bene, abbiamo la conferma. Bellissimo. Che è andato tutto bene. Bentornati e allora, Pietro, bentornati. Bentornato Francesco, visto che mi hai chiamato Pietro, chiamiamoci per nome. Allora, sì, siamo più maturi, dobbiamo... è vero, forse diamo questa impressione. Ma la questione è che ci siamo sentiti l'ultima volta, così in diretta radio, molto tempo fa. Cioè era, se non sbaglio, giovedì 28 novembre, adesso che invece è giovedì 18 gennaio, cioè poco meno di 2 mesi dopo, torniamo. Puntata numero 1 della seconda stagione, nel senso la prima dopo la pilota. Nel frattempo è successo, di cose sono successe, siamo ammalati, guariti, è successo un po' di tutto, come a tutti immagino, ma abbiamo iniziato esattamente questa settimana il nostro spazio mensile su Radio Banda Larga Torino, che si chiama esattamente come il talk show, cioè Battito Madre, ma in cui cerchiamo di fare una cosa al negativo, cioè parlare molto poco e suonare tanta musica. È vero, forse un po' un'esigenza che avevamo, non trovi? Cioè, o meglio, magari l'abbiamo fatto una volta, ci è piaciuto tanto e allora abbiamo voluto continuare a farlo, non lo so, però... Sì, allora abbiamo scritto, e secondo me questo era probabilmente il bisogno, di proprio allargare, espandere l'universo che poi entra dentro il talk show in senso musicale, perché noi qui abbiamo la possibilità di suonarci, l'anno scorso erano 8, quest'anno riusciamo a suonarcene probabilmente 11 a puntata, ma sono poche, considerando che facciamo 1:30, 1:40 di diretta. Di là invece 1 ora di musica, almeno 20 tracce, ed è proprio tanta, tanta musica. Era un invito comunque, tutto ciò. Esatto. Ascoltateci. Esatto, questo era un invito, ascoltateci. Il prossimo è il terzo lunedì di febbraio, perché sono tutti ogni terzo lunedì del mese, dalle 19 alle 20, noi siamo su Radio Banda Larga Torino. Questo primo episodio che è andato in onda questo lunedì lo potete recuperare proprio su RBL Torino. Noi su Instagram abbiamo il link in bio in cui c'è la pagina di Battito Madre, in cui si possono recuperare tutti gli episodi. Ebbene, è bello essere in diretta da Exalgi Milano, è bello essere in diretta su astarbene.com. Noi abbiamo lavorato per questa puntata, già sapete, avremo ospiti che abbiamo annunciato, cose che non abbiamo detto. Appunto, parliamo di cumbia. Cominciamo. Per cui, Coni, io direi che lanciamo il primo pezzo, così, in media stress. Thank you. voglia sperare. Te daré un mundo de pasiones, sentirás un mar de emociones. Ven amor, conmigo ven a amar, debe ser ahora, no te puedo ya esperar. Te daré un mundo de pasiones, sentirás un mar de emociones. E questo era il pezzo che si chiama Mar de Emociones de Afro Sound, non a caso, perché qui siamo appunto molto molto dedicati alla musica, diciamo, afrodiscendente, perché questo qui probabilmente è il termine più adatto, ma cioè, il mood l'abbiamo subito sentito, è proprio settato. Noi è un mese almeno che ascoltiamo, non dico solo, ma quasi solo cumbia, ormai io credo che cioè, ce la sogniamo la notte, quando cammino per strada mi sento il suono del guiro in testa, stiamo proprio mangiando e bevendo cumbia. Esatto, volevamo partire con un pezzo che facesse un po' entrasse a gamba tesa. L'argomento di oggi, un invito. Dice, ben amor, ti invito a bailare, quindi questo è un invito a tutti e tutte che siete all'ascolto, che siete a Milano magari, veniteci a trovare, perché noi siamo ad Exage e anche live, siamo live da qui, tutti gli ospiti, o meglio gli ospiti che avremo poi, perché sono lì che vanno a aumentare, sono qui con noi, insomma venite a trovarci. Ma appunto, la cumbia. La prima cosa che ci interessa, perché noi in effetti avevamo già iniziato così l'anno scorso, è che cumbia è tanto la musica quanto il ballo che si fa su quella musica. È un ballo che all'inizio era di gruppo, ma poi è diventato di coppia, ma questo lo diremo più avanti. E se vogliamo parlare di tradizione, andiamo proprio davvero al... andiamo un po' all'osso. Sì, all'inizio proprio della tratta degli schiavi, perché... la colonizzazione in questa zona qui, cioè parliamo del popolo, della popolazione Cibcia, la civiltà Muisca, insomma queste sono cose che poi magari si potrà anche andare a ricercare più personalmente nel profondo, ma questi sono i luoghi dell'America Latina in cui poi è nata questa cosa che, esatto, è strano che però, scusami se ti interrompo, che c'è proprio una regione in cui che è dovuto ovviamente allo sbarco degli spagnoli nell'America centrale, però c'è una regione delineata in cui c'è questa fusione ha dato il via a tutto, no? Sì, allora guarda, parliamo della Colombia centrale, che è proprio il territorio dei Muisca, cioè questa civiltà era una confederazione, cioè erano avantissimo, era una confederazione tra due popoli, cioè la Hunza e la Bacatà, due civiltà che insieme si erano confederate, formavano un'unica civiltà, appunto, che si chiama Muisca. Ed era un territorio, leggiamo, più grande della Svizzera, cioè era davvero una nazione. I colonizzatori che cosa hanno fatto? Hanno messo lì la base della propria amministrazione. Il Nuovo Regno di Granada aveva lì i propri palazzi, le proprie banche, i propri luoghi dell'amministrazione. Ci siamo più o meno messi già nell'ordine delle idee, nell'ottica di questa puntata, è di nuovo West Africa, America, sostanzialmente, questo movimento che facciamo. Per capirlo anche con le orecchie, noi andiamo di nuovo drittissimi, ci sentiamo una cumbia di quelle proprio classiche, di cui non si riesce a identificare un anno di release, di uscita, perché proprio una di quelle cose che è nella tradizione popolare, che viene passata di padre in figlio, di madre in figlia. Canti folk, no? Avevamo aperto con Alan Lomax. Bravissimo. Quei tipi di discorsi là. Poi appunto musica folk. Questo è l'Alo I Conjunto Colombia, si chiama la band, su cui non sono riuscito a trovare nessun altro tipo di informazione se non il nome. Ci ascoltiamo semplicemente il pezzo, che si chiama non a caso Flores de Colombia. Senti qua come fa l'Alo I Suo Conjunto Colombia. Flores de Colombia. De tambores se escucha por el lugar, es la cumbia de las flores que nos invita a bailar. Rumor de cumbia, canto del mar, arrullo suave para gozar. De Colombia engalanadas están matizando sus colores de tarde primavera, parejas enamoradas alegres vienen y van al embrujo de mi cumbia, todos llegan a danzar. Rumor de cumbia, arrullo suave para gozar, que nos invita a bailar. Ritmo ardiente de tambor se escucha por el lugar, es la cumbia de la de cumbia, canto del mar, arrullo suave para gozar, para gozar. Flores de Colombia di appunto Lalito, I Conjunto Colombia, è appunto una di queste canzoni tradizionali, cumbie tradizionali, che sono proprio patrimonio, ecco, della cultura popolare. Stavamo continuando noi nel frattempo a cercare delle date, ma è proprio che non ha neanche senso a questo punto, no? No, sono d'accordo. In questo caso cos'è che volevamo far trasmettere, sentire questa tradizione nella musicalità, comunque questi suoni che ricordano molto comunque la terra africana, con percussioni eccetera, e si può dire che assolutamente portano alla danza, che è l'argomento su cui dovremmo, cioè di cui adesso diremo due robe sicuramente. Sì, perché di nuovo è qui, questa è una cultura, è una forma artistica in cui la danza non è separata dalla musica, come è appunto originariamente e tuttora in molte culture dell'Africa e del West Africa. Ha moltissimo a che fare la cumbia con l'Africa, proprio anche a livello etimologico. Nel 1930 questo musicologo latino di Panama, che si chiamava Narciso Garay, ha sostenuto che la parola condivideva la radice linguistica di cumbe, che è come si identificava, non a caso, ballo di origine africano e registrato nella Real Accademia della Lengua come Baile de Negros, cioè il ballo dei neri. E di nuovo c'è un'antropologa che è colombiana e si chiama Delia Zapata Oliveira, che dice basicamente la stessa cosa, che l'unica voce simile a cumbia che menziona l'Accademia Spagnola è Cumbé, cioè Cierto Baile de Negros y Tañido de este Baile, cioè il ballo e la musica che accompagna questo ballo. Di nuovo tanti altri dicono sostanzialmente le stesse cose. C'è una cosa interessante, è che in Congo i suoi re si appellavano come re di Kumba, e quindi c'è un altro riferimento all'Africa più centrale, e non in termini direttamente musicali ma in termini proprio culturali. Ma insomma, Kumbé senza accento, tra Antille, cioè Caraibi, Guinea Equatoriale e Africa centrale, è tutto lì, anche proprio a livello etimologico. Chiude questa discussione, ma in realtà no, nel 2006 questo musicologo, sempre colombiano, cioè Guillermo Carbó Ronderos, dicendo semplicemente che l'etimologia della voce cumbia è ancora controversa. Grazie, ci teniamo questa controversia. Dai, però comunque mi sembra che si siano messi un po' tutti d'accordo, e soprattutto poi nel voler dire che la cumbia era una danza, giusto? Era una danza ed era una danza atta alla socialità. Assolutamente sì. Accenniamo già qualcosa per qual è la tradizione che si è portata da West Africa nell'America Latina e direttamente qui in Colombia. Una danza rituale che si chiamava cumbiamba, anche appunto a livello di nome capiamo come le due siano strettamente connesse. Però diciamo probabilmente, anzi senza probabilmente, diciamo senza dubbio qualcos'altro più tardi sulla cumbiamba e su come è successo che poi la cumbiamba è diventata cumbia, dopo quest'altro pezzo, perché noi ancora vogliamo calarci nel clima della tradizione, no, cumbiera colombiana, e ci suoniamo un altro di questi pezzi proprio della tradizione popolare, di cui di nuovo non sappiamo quale sia la prima apparizione, ma è proprio nei cuori dei cumbieros colombiani, se vogliamo. Se non sbaglio anche questo comunque raccolto in una collezione di cumbia classica colombiana dal 48 al 71. Ecco, sì, esatto. Quindi più o meno le indicazioni sono queste. Le migliori coordinate cronologiche che possiamo dare sono queste. Un bel ventaglio di 20 anni. E va bene, questo è un pezzo di Rafael Yepes Crespo con Sus Negros de la Región, molto divertente, e si chiama Nubia en la Playa. Nubia, io ho cercato di capire più o meno che cosa... Anch'io sono andato a vedere che cosa secondo volesse me, significare. Non ho trovato niente di certo, ma secondo me è un modo che si ha evidentemente in certi luoghi della Colombia per indicare, diciamo in gergo, una donna con la pelle nera. Perché la Nubia alla fine è una regione africana vicino all'Egitto, secondo me vuol dire questo. Mi dice Nubia dove sta, secondo me vuol dire quello. Ma vabbè. La playa lo sappiamo cosa significa, ma lo sentirete anche nella canzone, tra l'altro, che è una cosa che ho trovato molto interessante, che c'è proprio il campionamento di suoni ambientali all'inizio e durante il pezzo. Ah sì, certo, è vero, molto molto bello. Rafael Yepes y Sus Negros de la Región. But primavera, tan radiante como el sol, besar tu boca quisiera, dueña de mi corazón, nubia flor de primavera, tan radiante como el sol, besar tu boca quisiera, dueña de mi corazón, nubia, nubia, ¿dónde estás? Que yo te quiero besar. Nubia, nubia, ¿dónde estás? Que yo te quiero besar. Senti, senti questo vento della spiaggia nei Caraibi della Colombia, è proprio bello, bello, molto divertente. Questa Nubia in la plaja, questo... Io dai, credo che un ascolto attento anche del testo sia così. La Nubia è una donna. Cosa dice? Besar tu boca quisiera. Dai, è chiaro. Conferma anche Kit Ramos. Esatto, anche Kit Ramos, chi presenta, sì, secondo me è una persona, una donna. Perché giustamente... Cioè, poi vabbè, fa ridere, ma è proprio vero, nella cumbia si canta tantissimo di amore, se vogliamo, quando un uomo canta per una donna, quando una donna canta per un uomo, però c'è lì, c'è proprio quel il motore forse di questa roba qui, è lì. E cos'è poi alla fine quella roba lì? Abbiamo parlato prima, abbiamo appena finito di nominare la cumbiamba, che è quello che possiamo davvero in qualche modo considerare l'origine della cumbia, l'origine west africana della cumbia. Abbiamo detto che era una danza rituale e che noi pensiamo nella situazione di schiavitù, l'unico momento che di socialità che si aveva era quello, era la sera attorno a un falò a appunto reiterare i riti dei propri padri, dei propri nonni, e farlo dove si è tenuti in cattività. E in questo caso si svolgeva così, appunto, si ballava in gruppo attorno a un falò con queste percussioni molto forti, insomma, che conosciamo. Era una cosa fatta in questo modo qui. La cosa fondamentale che è successa è che poi quando... Ti interrompo, e secondo te a cosa servivano, cioè non secondo te, lo so che lo sai, ma secondo voi a cosa servivano questi rituali durante la sera intorno al fuoco? Certo, perché erano presenti tutti, bravo, questa è una cosa importante, tutti... ma non solo gli adulti, o forse solo gli adulti. Ragazzi, sì, bambini magari esclusi dai balli, però il ballo era proprio atto. Esatto. Dagli adulti e dai giovani, maschi e femmine, anche perché era proprio, bravo, l'unico momento in cui si poteva cercare un partner sessuale. Ci si trova nella cumbiamba e ci si allontana un attimo dal falò e insomma ci si sfoga, ci si diverte al buio. Con la fine della schiavitù è successo che questo, da diventare un momento di gruppo e rituale, anche per certe questioni di necessità sociale, è successo che da ballo di gruppo è diventato ballo di coppia, per cui il partner ce lo si sceglieva alla fine nello stesso modo, però ci si ballava insieme prima di allontanarsi dal falò, forse. Un'altra parte decisiva poi alla fine è ovviamente quella coloniale, che negli anni per forza di cose era entrata anche nella cultura di chi era stato lì deportato e non apparteneva a quei luoghi, per cui sono state inserite delle parti più melodiche, meno sì, direttamente ritmiche. Cantate soprattutto, perché prima comunque era principalmente una musica ritmica, rituale e atta al ballo. Ovviamente poi con l'introduzione della musica occidentale, eccetera, il cantato ha preso una buona parte di questa musica. E da qui sostanzialmente è fatto, da qui viene la cumbia così come la conosciamo, così come l'abbiamo ascoltata nella sua versione più tradizionale possibile negli ultimi due pezzi. Adesso andremo un attimino indietro, perché andiamo a sentirci, sì, una cumbia, però talmente early, presto, cioè nuova, fresca al tempo, che secondo noi mantiene degli elementi che poi erano della cumbiamba. E se non ricordo male, sentiamo proprio che anche uno strumento che alla fine è melodico, cioè la fisarmonica, l'armonion, è usato qui proprio quasi come una percussione, con molta poca melodia e tanto ritmo. Il pezzo in questione si chiama Samaria ed è della band che si chiama Los Alegres del Valle. Se non riuscivamo a dare date prima, figuratevi adesso, però alla fine a noi basta far sentire la musica, vero Corey? Sentiamo Samaria de Los Alegres del Valle, un po' di cumbiamba, un po' di cumbia, per scaldarci ancora, let's go! Maria del gruppo chiamato Los Alegres del Valle, perché appunto erano allegri, e noi abbiamo suonato questo pezzo perché crediamo che appunto ci si possano risentire le origini di quella che adesso chiamiamo cumbia e che sono appunto di nuovo nel ballo tradizionale e nella musica tradizionale, nel rito che era quello della cumbiamba. Però, si sente il ballo, si sente, è vero, no? Sì, sì. Anche questa fisarmonica, comunque è vero che la che fa una melodia, nel senso che fa delle note diverse, però è proprio, ma come fai ad ascoltare questa musica se nel frattempo non viene accompagnata da dei balli, cioè, nel frattempo non arriva una bellissima colombiana che ti esce a ballare. Bravo. E dunque, però finora, mentre sono esattamente le 7:30, noi siamo tornati in diretta su astralbene.com, su Radio Exalge, live da Exalge Milano, e questo è Battito Madre, la seconda stagione, primo episodio dopo la pilota. Dicevo, finora abbiamo parlato solo di Colombia, perché per quanto sia vero che poi la vera origine, la prima della cumbia sia lì, però poi ormai la cumbia è patrimonio di tutta l'America Latina, come avremo modo di ricordarci anche più tardi, però diciamo che immediatamente a me l'attenzione è stata catturata da questa variazione della cumbia, cioè quello che è successo una certa, soprattutto, cioè, negli anni 70, 60-70 in Perù, Perché quello che noi alla fine un po' ingenuamente chiamiamo, abbiamo sempre chiamato cumbia, penso a dei pezzi molto famosi dello Smirlos, che ne so, cose del genere. In realtà si chiama questo genere, si chiama ciccia, la ciccia peruviana. Che cosa è successo? Va bene. Sì, storia particolare, quella del nome ciccia. Sì, quella del nome ciccia è divertente. Bella, devo dire che comunque riassume molto bene la... oddio, non mi viene il termine. Però come è fatto il popolo peruviano. Cioè molto Il realismo magico. Ma sono veramente persone che ci tengono al loro posto, alle loro tradizioni, alla loro cultura. Ed è bello che abbiano dato anche un nome vero e proprio, sì. Cioè abbiano creato un genere dalla cumbia. E poi più materialmente cosa succede? Che in epoca di globalizzazione succede questo anche in Perù. C'è tantissimo flusso migratorio, soprattutto verso Lima, cioè dalle coste, dalle campagne verso Lima, certo. La città in cui stava succedendo la globalizzazione come nel resto del mondo, e quindi ovviamente arrivavano le musiche e ovviamente si mischiavano con le musiche che già si ascoltavano, cioè cose più direttamente latine, cioè sostanzialmente cubane e afro-cubane. Sì. Tra l'altro Lima, impressionante lo sviluppo demografico che ha avuto, che negli anni 50, che da 500.000 abitanti è arrivata ad avere 1.200.000 esatto in 15 anni, quindi anche proprio quanta cultura, musica e arte si sia trovata in quel momento dentro Lima. E il nome ci sono, queste sono le situazioni che a me mi fanno proprio impazzire, perché è dove la realtà si mischia con la leggenda, è dove non come con il nome cumbia, se vogliamo, anche con il nome ciccia, dove la realtà si mischia alla leggenda, di nuovo non voglio dire alla finzione ma alla magia. E quindi noi abbiamo trovato due versioni. Cioè, una è che questo artista che si chiamava Carlos Vasquerizo Castro, con il suo gruppo che si chiamavano Los Demonios de Mantaro, un gruppo che ha avuto 10 anni di attività, 66 al 76, compone una canzone che si chiamerà La Cicera. Leggenda vuole che questo pezzo all'inizio volesse essere chiamato cumbia peruviana, ma insomma vabbè, ma era già stato usato, e allora ha deciso di dedicandola a questa donna, ovviamente. Un'altra volta venditrice di ciccia, bevanda tradizionale e popolare in Perù. Una bevanda che appunto risale a tempi antichissimi. E cos'è per cui quell'altra versione, che esatto, quella che lega anche la seconda storia, assolutamente, esatto, è che lo Shapis, che sono un gruppo, appunto i pionieri della ciccia, nell'85 sono stati a un festival, hanno suonato il Festival della Gioventù in Francia e sono stati confusi con colombiani, esatto. E loro erano talmente infastiditi da questa cosa, da essere stati confusi come colombiani, per colombiani, che tornati a casa hanno deciso di metterci una pezza. Però questa roba non è possibile, che ci scambiano per colombiani quando siamo peruviani, e quindi hanno battezzato nuovamente il genere di cumbia che loro facevano, ispirandosi, è questo che voleva dire Cori prima, a questa bevanda che dire tradizionale è poco, cioè è proprio antica, è una bevanda che già spirituale anche, conoscevano, no? E sì, che veniva usata anche a scopi rituali. E quindi loro hanno sentito che l'identità vera di questa loro cumbia andina peruviana fosse in questa parola. La cosa divertente è che per i peruviani, leggo, sin chitarra non è ciccia, cioè se non c'è la chitarra in questa musica non si può dire ciccia. Allora, quindi capito che come ti dicevo, proprio orgogliosi. Sì, è vero, c'è un'identità fortissima, mettono dei paletti precisissimi. E noi abbiamo trovato questa band appunto peruviana che si chiama Juaneco y su Combo. Vedi questi nomi tutti così, c'è il frontman e poi dietro la band, che è una delle band più fighe che noi abbiamo mai conosciuto, perché leggendo anche la storia molto breve, ma hanno avuto, ma a parte tra rock and roll, alcol, droghe, vita sregolata, cioè nella storia di questo gruppo c'è anche un incidente aereo, cioè di tutto. E quindi ci fa molto piacere suonarci un loro pezzo che non a caso, a proposito di vita sregolata di Perù, si chiama Vacilando con Ayahuasca, cioè vacilando un po' dire divertendosi in modo tranquillo. È molto divertente questo pezzo, lo andiamo ad ascoltare. Juaneco y su Combo, Vacilando con Ayahuasca. Buon anno, Gibi! Arriva? Arriva o non arriva? Ah, ti ho detto che è stato bellissimo. Dai. Ai, Juanita, dammi tua ayahuasca. Che rico. Trattano di un bene. Juaneco i su conjunto assidando con ayahuasca, molto, molto divertente direi. Coli. Sì, sì, sì, direi che si percepisce benissimo la fusione tra rock psichedelico, droghe e ayahuasca. Esatto, perché poi era per questo che si inghitarrano e ciccia, perché la ciccia è proprio nata, vabbè, ovviamente non è stato nominato per nome, ma ovviamente quello che succedeva negli anni 60 e 70 dall'altro lato dell'oceano e al nord, era questo, per cui ciccia psichedelica con la chitarra molto, elettrica, molto in primo piano, delay, riverberi, che poi se vuoi questa chitarra qui fa un po' il lavoro che fa la fisarmonica sulla cumbia. Assolutamente, sì, no? È vero, questi giri ripetuti e poi alzati di un'ottava e poi ritorni giù, è quella roba lì. Ma per ricominciare a parlare anche, insomma, per non restare troppo su una cosa, ma spostarci subito sull'altra, c'è un altro luogo più tardi, una ventina d'anni più tardi, in cui la cumbia ha avuto un'evoluzione. Ed è ancora più a nord, cioè Monterrey. Monterrey in Messico, perché Monterrey è esattamente a metà strada tra Houston e... ma ora non ricordo cosa ci sia di qua, ma insomma è in una posizione geografica molto avvantaggiata per questo tipo di scambi culturali. Certo, tra America del Nord e, diciamolo, e Sud America. Sì, sì, sì. Si trova esattamente lì e quindi la sua posizione, appunto, come hai appena detto tu, è favorevole proprio allo scambio di culture. E ovviamente a un certo punto è arrivata anche la cultura della cumbia. Sì, però la cosa carina, la cosa interessante è che intorno agli anni 90 c'è stata questa comunità che loro si chiamavano Colombia con la K, era un po' il nome identificativo di questo movimento, proprio a Monterrey, che oltre a vestirsi come i gringos, ma molto più oversize, cioè delle oversize talmente grosse che le maniche corte diventano, che ti arrivano sulle unghie, portavano dei capelli stranissimi. Volevamo mettere una foto su Instagram, ma invece mi sono dimenticato. Però lo potete vedere su un film che adesso citeremo, ma la cosa bella, la cosa che ci interessa qui, è che questi abbassavano il tempo delle cumbie colombiane, erano appassionatissimi, però le ascoltavano solo rebajadas. Questo infatti appunto è nata lì a Monterrey, questo genere, questo sottogenere che si chiama cumbia rebajada. Noi ci siamo visti appunto questo film bellissimo che si intitola Ya no estoy aquí, I'm no longer here, non sono più qui, film del 19, cioè appunto il 2019, del 2019. Scritto e diretto da Fernando Frias de la Parra, che era anche agli esordi come regista, ha vinto un sacco di premi nei festival indipendenti del mondo, fino ad essere selezionato proprio anche nella shortlist dei semifinalisti agli Oscar 2021. Film molto molto bello che si trova su Netflix e parla completamente di questa subcultura, che è una subcultura portata avanti da ragazzi ovviamente, che abitavano le zone principalmente più malfamate di Monterrey, era ovviamente gente non abbiente, e che si è proprio impossessata di questi suoni, ma anche qua, anche stavolta dando un loro contributo. E è stato fatto poi per, cioè, l'origine di questa usanza si dice che deriva anche qua, ci sono un paio di leggende, o che in una festa l'impianto è iniziato a surriscaldarsi e quindi per cercare di mantenere la corrente hanno dovuto, il sonido hanno dovuto abbassare il pitch dei turntables. O si è messo un po' mal funzionare lui di suo, una delle due, oppure no, così era l'altra? Non mi ricordo. Ma l'altra non lo so, non mi ricordo neanche io, abbiamo sentito solo questa cosa leggendaria e poi un DJ, un DJ collezionista che cosa faceva? Facevano le feste ovviamente e mentre ascoltavano la cumbia è successa questa cosa simpatica che è stata molto gradita dai partecipanti. Esatto, perché poi succede questa cosa qui, il sonido era Hermanos Dueñez. C'è l'intervista in un contenuto di Vice che si trova su YouTube e lì dice esattamente questo: noi abbiamo inventato la cumbia rebajada. E allora noi ci suoniamo un pezzo che è nella tracklist di Ya no estoy aquí. Ovviamente non sarà l'originale, che l'originale è di Lisandro Messa, il pezzo si chiama Lejanía, ma la versione rebajada, l'originale era dell'82, per cui parliamo di almeno una decina di anni dopo, è proprio una cumbia nostalgia che a questo punto io, dopo averla ascoltata rebajada, non sarò in grado di ascoltarla in nessun altro modo. Lejanía. Esperando que llegue la hora de regresar a mi tierra. En el valle de Pubenza me he metido, lejanía que me tiene entristecido. En mi pecho floreció una cumbia de la nostalgia, como una lágrima que se escapa. Cumbia del alma, cumbia que madruga sobre Pubenza con insistencia buscando Cauca. Ay, me da, qué tristeza que me da, me da la lejanía. Y me da, qué tristeza que me da, estar tan lejos de la tierra mía. Y me da, qué tristeza que me da, me da la lejanía. Y me da, qué tristeza que me da, es estar tan lejos de la tierra mía. Lejania, rebajada, l'originale, ripeto, è di Lisandro Messa dell'82, e appunto fa parte della tracklist di questo film che abbiamo visto in settimana, molto molto bello, che si chiama, lo ripetiamo di nuovo, Ya no estoy aquí, Ya no estoy aquí, I'm no longer here, non sono più qui, lo si trova su Netflix. Ma visto che abbiamo detto non vogliamo soffermarci troppo su una sola cosa, ma andare avanti, anche perché di cose in realtà ne abbiamo ancora tante da dire. Un'altra cosa, un'altra evoluzione, un'altra versione della cumbia di cui mi piace parlare, perché è molto vicina al mio cuore, è la cumbia viscera, nata in Argentina verso la fine degli anni 90. Viscera perché appunto è nata in quelle che si chiamano las vicias miserias, o semplicemente vicias, che sono quelle che in Brasile si chiamerebbero favelas, insomma insediamenti informali molto poveri e molto densamente popolati. Insomma, tra fine anni 90 e inizio anni 2000, queste popolazioni, queste persone, direi soprattutto quasi solo di Buenos Aires, hanno trovato la propria espressione ispirandosi alla cumbia, quella là, tradizionale, colombiana. Ha ricevuto il nome di Cumbia Viscera, leggiamo, nel 2000, dopo la pubblicazione dell'album, appunto, Cumbia Viscera, di Sherba Brava, uno dei gruppi, uno degli artisti più rappresentativi del genere, ma forse i più rappresentativi del genere, soprattutto in Argentina, sono i Pibes Chorros, che letteralmente vuol dire i ragazzetti ladruncoli, che fanno i ladri di professione, lo dicono anche in una canzone. E andiamo direttamente a sentirlo, questo pezzo che si chiama Sentimiento Viscero. A me, dopo averlo ascoltato per tanti anni, mi fa un'allegria, una soddisfazione suonarmelo in radio, che davvero non si può dire. Questo tra l'altro è un pezzo che anche a te, Cori, è piaciuto molto, se non sbaglio, per cui non è solo sentimento mio. E sentiamo i Pibes Chorros che ci cantano questo sentimento viscero. Posso dire una cosina piccolissima? Sì, devi. Che rispetto anche agli altri generi, cioè anche nella musica, no? Questa sorta di ruvidità, sia della vita che dei testi, viene trasmessa anche a livello proprio sonoro. rispetto a quello che abbiamo affrontato oggi, no? Aspetto degli altri generi, delle altre interpretazioni di cumbia. Verissimo. Ed è questo uno degli aspetti che mi è piaciuto anche di più di questo genere. È molto più dritto. È molto più dritto, sì, forse esatto, perché a me piacciono le sonorità un po' più elettroniche, eccetera. E questo qua, essendo il genere più moderno, no? Tra tutti quelli che abbiamo affrontato, sì, di cumbia, è giusto anche che mi ci ritrovi. Quindi sì, mi è piaciuto molto. Bello, mi fa molto molto piacere, perché sì, è vero, prerogativa della cumbia viscera è stata anche criticata per questo, sono i testi che parlano di cose basse, perché dal basso viene, parlano di droga, di violenza, criminalità, questi sono un po' i temi, però lo fanno con tanto tanto sentimento, perché quello è il sentimento viscero. Allora sentiamolo, Pia Chorros. Pia Chorros, ci cantano questo sentimento viscero, noi continuiamo a sentirlo in sottofondo, ma andiamo avanti, perché a parte ci sarebbero... Perché sì, caro. Perché sì, perché non c'è altro... Si va avanti, non indietro. Non c'è altra direzione, hai ragione. E, al di là del fatto che ci sarebbero tanti altri sottogeneri di cumbia di cui parlare, ma a parte non abbiamo lo spazio, ma non possiamo neanche avere la pretesa di essere esaustivi. a noi interessa, allora va bene che il nostro interesse, la nostra curiosità sono molto vivi, e quindi abbiamo preparato una puntata che ormai sta andando avanti da un'ora qui in diretta su radioexaliosastabene.com. Però la cosa che ci piace di più è sentire delle testimonianze vive, per cui a parte che abbiamo degli ospiti che entreranno con noi in diretta tra una decina di minuti, forse qualcosa in meno, anzi no, forse una decina spaccata, e insomma, però prima abbiamo voluto raccogliere delle testimonianze da persone che conosciamo, che ci sono vicine e che sappiamo essere per nascita, se vuoi, per storia, vicine, non per colpa loro, non, cioè, non è colpa loro. Allora abbiamo chiesto di far sentire la propria voce e di dirci un po' che cosa significasse questo per loro. La cumbia per loro. Sì, sì, esatto. Facciamo chiarezza. Scusami. Colli ci ha messo del suo e ha fatto un montaggio davvero davvero molto bello, e quindi lo lanciamo. Grazie. Direttamente. Sono 5 persone. Amici. Sì, amici che ci dicono più o meno che cosa vuol dire per loro la cumbia. A dal puttana che batti comadre, come va? Qui parla Salvador, direttamente dal sud del Cile, sempre di fianco a un pezzo di cumbia. Perché la cumbia in Cile è ovunque. Aguante la cumbia. Per me è un simbolo di festa e anche divertimento e godimento, di condivisione di momenti belli tra amici. È una musica con la che io cresci, è come che despertava la mattina e mi vestivo ascoltando così. Non mi gustava, però era come la musica che suonava tutto il rato. Y ahora llego acá en Europa, cuando llegáis a una fiesta o estáis en un festival, así con un montón de gente, y luego suena una cumbia o una tecno cumbia o una banda de cumbia, puta el corazón, así. La cumbia es mucho, es demasiado. Si hay algo para festejar, se escucha cumbia. Si va a un boliche, se escucha cumbia. Si hay alguna fiesta de algo, se escucha cumbia. Si no sabes qué hacer y estás de joda con unos amigos, agarras un rallador, un tenedor y haces un güiro y cantas cumbia. Una cumbia que le canta al amor, a los corazones rotos, a los amigos que traicionaron amigos o a su pareja que los traicionó. Pero a la vez es cómico. Si vos escuchás a alguien a lo lejos que escucha cumbia fuerte, sin verlo, podés saber que está sonriendo. O aunque sea, está balanceando la cabeza. La cumbia es algo que identifica a de donde yo soy. Es algo que identifica un poco las raíces. Creo que es un idioma. Es un idioma que lo puede hablar mucha gente. Y es un idioma que lo puede aprender mucha gente. Creo que el que la escuche lo va a comprender como tal. Eh sì, questa era la cumbia per i nostri amici e amiche. C'erano, tra l'altro, due cileni, cioè un cileno, una cilena e 3 argentini che ci hanno parlato di quello che vuol dire per loro la cumbia. Ma andando rapidissimi, c'è un'altra testimonianza che a noi interessa molto farvi sentire, perché tutte queste musiche, e in realtà molte di più, hanno il loro lato di cultura sound system, chiamiamola così, di modo di essere ascoltate in pubblico, che è la cultura sonidera più in Messico, mentre picotera nelle regioni caraibiche della Colombia. E noi volevamo dire un paio di cose sulla cultura picotera, ma poi abbiamo pensato che abbiamo un amico che lo fa direttamente, ci ha mandato quest'audio in cui ce la dice tutta dall'inizio alla fine, e quindi facciamo parlare direttamente lui. Lui è Nedim, che gestisce e ha costruito insieme al suo socio il Turbo Maradona, cioè il primo pico costruito in Europa. È successo a Mondovì, in provincia di Cuneo. E niente, ascoltiamo direttamente la voce di Nedim, a cui mandiamo un grandissimo abbraccio se ci sta ascoltando, e rinnoviamo i nostri ringraziamenti per questa cosa che è davvero molto molto bella. Hear this. La storia del picò è una storia di protesta e di contaminazione. I picò nascono e si sviluppano in 2 città della costa caraibica colombiana, che sono Barranquilla e Cartagena. si sviluppano nei quartieri popolari, nei quali le persone iniziano a partire dagli anni 50 ad organizzare delle feste dove viene proposta una musica che non viene passata, diciamo, sulla radio di Stato. Una musica popolare, una musica che si rifà alla tradizione africana di queste persone. È importante dire che Barranquilla e Cartagena sono le due città portuali più importanti del Caribe colombiano, città che per secoli sono state luogo di scambio, di passaggio, di scambio commerciale, di tratte di schiavi. Cartagena era il principale porto della tratta di schiavi provenienti dall'Africa. Questo ha come risultato che gran parte della popolazione di Cartagena fu ed è ancora di origine africana. Questo ha portato a un grandissimo afflusso di musica africana verso le coste caraibiche. Più o meno negli anni 60-70 tantissimi dischi provenienti dall'Africa iniziarono a circolare in Colombia. Questo, unito all'inizio, diciamo, della cultura picotera, portò ad avvicinarci, diciamo, al picò come lo conosciamo oggi. I picò poi negli anni si sono sviluppati, se all'inizio degli anni 50 e fino agli anni 70 erano più orientati verso la musica afrocubana come discarga, pachanga, guaguancó, bolero. Dopo gli anni 70, appunto, con questo afflusso di dischi provenienti dall'Africa, ci fu una grandissima contaminazione di musica africana che poi portò successivamente alla nascita di un genere che ora è iconico per quanto riguarda la cultura picotera, che è la ciampeta. Al giorno d'oggi i picò si sono evoluti moltissimo, sono aumentati in numero, sono aumentati in dimensione, hanno sviluppato un'identità molto forte a livello culturale colombiano e anche un'identità, come dire, personale per ogni picò. Quindi portano questi nomi altisonanti, questi colori sgargianti, e ogni picò, diciamo, ha una sua particolare linea musicale. Questa linea musicale cambia anche dal posto dal quale il picò proviene. Vengono proposti generi come salsa, cumbia e generi di musica africana, appunto come ciampeta, sucus. Alcuni picò mettono solamente dancehall, adesso in epoca più moderna vengono proposti generi come anche il reggaeton, la ciampeta moderna, la dancehall moderna, che sono molto influenzati anche dalla musica contemporanea e dalla musica elettronica. Uno degli eventi principali che promuove la cultura picotera, nella quale, diciamo, la cultura picotera ha un grandissimo sfogo, è il Carnaval de Barranquilla. È uno dei carnevali più grandi del Sud America, dopo quello di Rio de Janeiro. È un evento molto partecipato e musicalmente molto importante, ed è un evento veramente, come dire, identitario della cultura picotera. Ci sarebbe ancora moltissimo da dire, non voglio dilungarmi troppo in questo momento. Voglio solo brevemente ancora spiegare che noi, come Turbo Maradona, abbiamo deciso fondamentalmente di portare alcuni aspetti di questa subcultura così, così contaminata, così varia, così potente, di portarli a casa nostra, di proporli a casa nostra. Per questo abbiamo costruito El Maradona, che con orgoglio è il primo picò costruito in Europa. Abbiamo deciso di farlo un po' diverso, cioè di farlo, diciamo, autentico rispetto allo spazio e al luogo nel quale è stato costruito. Quando si fanno queste citazioni culturali è molto facile, veloce e a volte comodo finire in, diciamo, nell'errore dell'appropriazione culturale. Un pochino inevitabile quando tu cerchi di citare, quando cerchi di proporre alcuni concetti provenienti da un'altra parte del mondo, ma sono cose che si possono fare in maniere diverse, soprattutto avendo la sensibilità di capire cosa e come è nato, dove e perché. Stasera si parla di cumbia, che è un genere importantissimo per la cultura picotera. Si è parlato di tradizione, quindi questo pezzo è suonato da Cumbia Moderna de Soledad, edito nel 1977 dall'etichetta Barranquillera Tropical, e si chiama Cumbia Africana. Amanayee. E questa sì, era la cumbia africana, perché appunto della band Cumbia Moderna de Soledad, perché appunto a Nedim del Turbo Maradona, oltre a farci questa bellissima lezione sulla cultura picotera, abbiamo chiesto anche di completare la nostra playlist, e questa è stata la sua pick. E detto questo, cioè di nuovo, a proposito di parlare con persone la cui vita è continuamente toccata dalla cumbia, possiamo finalmente introdurre i nostri ospiti, cioè Cacao Mentale. Benvenuti, ragazzi, finalmente. Ciao, battito madre. Che bello, ragazzi. Che bello avervi qui, che bello che passiamo questa serata insieme. Io partirei a dritta comunque, cioè sì. Ai nostri amici abbiamo chiesto di dirci, di raccontarci che cos'è per loro la cumbia. Chiediamo la stessa cosa a voi. Cosa vuol dire Kit la cumbia? Allora, penso, per me personalmente, la cumbia è ancora ritornare a sentire il profumo dell'Amazzonia. E, quello spazio lì che manca. E, ti fa arrivare direttamente appena cominci a cantare. Che poi è quello che mi ha detto anche Nacho, il mio amico. È un idioma che appena lo ascolti lo capisci così com'è. Stai dicendo qualcosa tu, Ste? Guarda, è tante cose la cumbia, perché chiaramente io la vivo dalla mia giungla urbana, che è questa, il tram, il parco, lo smog, la gente, la contaminazione, la psichedelia urbana, le biciclette, i rumori. E quindi comunque, come dire, per me la cumbia è la mia via di fuga. A parte una grande passione, un grande amore, un modo di ballare, di vivere, sì signor, yeah. Che viva la reproduzione, tutta sì. Una serie di cose che ci portiamo dietro da un sacco di tempo. Quindi comunque vabbè, è un po' un lifestyle e poi è divertimento, è libertà. Il fatto di poter viaggiare sia con la musica che con lo spirito, così permette di connettersi a un lato che è un lato forse più vecchio, come dire, il mio lato bambino, il mio lato futuro, è una cosa veramente molto particolare. Sì, devo dire che comunque ognuno mette la sua interpretazione, ma è carica, ragazzi. Cioè, la cumbia, cioè, non è una cosa allora, da prendere adesso, sotto adesso gamba. Manca Marco Pampaluna che ci deve dire che c'è, scusa. È una passione, così, è una febbre, come la febbre. Ti prende sta febbre e non se ne va più, è come la malaria. Bellissima, ma un po' più bella, dai. Sì, no, certo. Parte, non sto parlando inizi dello stato... a ballare e non ti fermi. Fine, è contagio, è proprio... è contagiosa, c'è dentro tanto, ci sono tantissimi racconti, c'è tantissima storia. È veramente una musica che si è diffusa, si è radicata in tutto Sud America. Ormai è vero, sta, questo dire, che è sta impossibile stare fermi. È impossibile stare fermi così. Certo. Per me... lo diceva il tuo amico, no, prima, che se senti qualcuno che sta ascoltando, suonando la cumbia senza vederlo, sai che si sta muovendo. Ma sì, è automatico, è automatico. Sa che sta sorridendo. Io lo so, forse è il perché. Perché in realtà ha un battito molto cardiaco. Cioè, questa è una cosa umana e quindi pulsa. Pulsa come te stesso. E cioè è impossibile, cioè può ballare un bambino, può ballare il metallaro e... il mio nonno, mia mamma, il mia mamma però, balla da un sacco di tempo. Il metallaro però la balla col chiodo, No. Cumbia ho visto ballare balla solo la cumbia ragazzi col che chiodo, prima erano seri così sappilo. Nei concerti e poi dopo un po' cominciavano a... allora questa è la psichedelia, Bene, bene, fantastico. Lancerei a questo punto il primo vostro pezzo, ragazzi. Ne abbiamo scelti tre, io e Pietro. E iniziamo con questo singolo dell'album del 2018, giusto? Yes. Che si chiama Ayahuasca Sublime. Que están naciendo y en el medio de toda la selva las anacondas brillan de paz. Thank you. ni la ayahuasca inicia su viaje en los rincones de tu cerebro. Y en un momento se tuerce el cuerpo y el Amazonas empieza a hablar. Muchas sirenas, ojos de fuego, cabello largo, dientes de perro, cambian las rutas de la quebrada para que los dioses puedan fumar. Ni locuras, ni ayahuasca pa' tomar. Viajes, viajes que no dejan dudas. Ni misterio, ni locuras, ni ayahuasca pa' tomar. Ojos de fuego, cabellos largos, dientes de perro, cambian las rutas de la quebrada pa' que los dioses puedan fumar. Viajes, viajes que no dejan dudas, ni misterio ni locuras, ni ayahuasca pa' tomar. Viajes, viajes que no dejan dudas, ni misterio ni locuras. Yo busco pa' tomar. Ebbene, oh yes, sì, questa era Ayahuasca Sublime de Cacao Mental, un pezzo del lontano ormai, 2018. Diceva Coli, giustamente, io in realtà, fuori onda. Diciamo anche, sperare un segreto. No, certo, siamo qua per questo, per ascoltare i tuoi segreti. È del 2013. Hai capito? Come a livello di scrittura e creazione. Sì, esattamente del 2013. Solo che l'abbiamo dovuto tenere in un cassetto. Certo. Nascosto. Quando è arrivata la tempesta dischi l'avete tirato fuori. Guarda, in realtà guarda, se volete ve lo posso anche certo. Possiamo anche raccontarvelo così, se possiamo rubarvi qualche minuto. Praticamente nel 2013 abbiamo iniziato a fare la cumbia elettronica e abbiamo provato a bussare un po' a tutte le porte. In realtà nessuno sapeva neanche dell'esistenza della cumbia, cioè proprio non era proprio nessun radar, non era il reggae, non era il reggaeton, non era quello, quindi proprio niente. Abbiamo tenuto tutto fermo in un angolino finché a un certo punto, tramite un giro di amicizie, abbiamo mandato dei brani. Qualcuno stava facendo una compilation dell'Istituto Italiano di Cumbia per tracciare una mappa delle realtà alternative. E noi siamo arrivati con i nostri prontissimi, probabilmente sì, cioè, corazzati. Noi stavamo aspettando il momento. Veramente non sapevamo neanche che qualcun altro oltre a noi ormai avevamo perso. È tutta energia terrestri. È vero, è flusso. E lì abbiamo conosciuto Davide Toffolo, abbiamo conosciuto Filo Q, tutti i ragazzi lo stesso Altos, tutte le varie alternative, tutte le varie band di musica alternativa. Ok, perché più nello specifico l'Istituto Italiano di Cumbia, che cos'è? L'Istituto Italiano di Cumbia nasce come compilation per mappare le realtà alternative di cumbia in Italia. A un certo punto, per presentare questo progetto, è nato un collettivo dove durante lo spettacolo ognuno portava le proprie canzoni, poi chiaramente c'era l'interplay con gli altri. Invece l'anno scorso abbiamo prodotto un album proprio come collettivo, un album tributo alla cumbia, un album di cover. Siamo stati in Argentina. Okay. Abbiamo fatto un tour Argentina A marzo, a marzo, i primi tre giorni in Uruguay. Io proprio questo non gli volevo te lo voglio fare ricordare che cosa no, hai fatto. No, ti prego, non rifarmelo ricordare. Allora, me senza ricordo, farci ricordare sera. Cosa ha fatto Stefano, però io era una cosa che vi volevo anche chiedere. Com'è stato portare la cumbia, cioè farle fare il viaggio inverso? La cumbia italiana, poi. Si può dire cumbia italiana. È stata una sensazione un po' strana, perché diciamo... Io personalmente, io vengo dal Sud America, ok, dell'Amazzonia, ok, e la cumbia è un po' anche parte della mia vita, la so anche perché l'ho ascoltata come una lingua, appunto. E arrivare qui, fare questo cambio, mi piaceva la musica elettronica, poi ho trovato lui, c'è stato tutto un tempo di magia che ha portato sì che la nostra cumbia sia un po' più personale, no? Quindi un po' più nostra, fatta a modo nostro. Esatto. È come domani qualcuno fa un altro pezzo, cioè la cumbia lo fa a modo suo e quindi suona in un modo diverso. Quindi c'è questa cosa. Quindi tornare là e portare i nostri pezzi che sono super elettronici, così, è loro che se la ballavano in un altro modo la cumbia, insomma, molto più di città, allora... cioè, soprattutto in Argentina, che c'è la cumbia della Colombia, l'Argentina è cambiata tantissimo, no? Abbiamo sentito il Piachorro, e quindi per loro puoi sentire la nostra cumbia che è parte dell'ancestrale e che è parte del moderno anche, poi hanno ballato, ok, allora... però sono rimasti un po' colpiti, però in altre parti è stato proprio... Si è fatto un'emozione forte. Sì, molto a me bello. La cosa che ha molto colpito dell'approccio delle persone nell'ascoltarci è proprio stata la curiosità. Erano curiosi di capire perché gente dall'altra parte del mondo, italiani tra l'altro, per gli argentini e uruguagi. Per gli argentini, così chiaramente siamo fratelli, eccetera. Però c'è stata veramente tantissima curiosità, anche perché oggettivamente tutte le realtà coinvolte, nessuno cerca di fare la cumbia come riscoperta di una tradizione che non ti appartiene, è semplicemente un punto di partenza, una suggestione. Ognuno di noi ci è incappato per un motivo o per un altro, però in realtà, come dire, è proprio col fatto che la viviamo da qua, la viviamo in un modo diverso. Non vogliamo chiaramente portare niente a nessuno, noi vogliamo semplicemente tributare, cioè vogliamo semplicemente divertirci, condividere, però chiaramente ci mettiamo chiaramente il nostro approccio, che è un approccio occidentale. Noi siamo di Milano, il club, cioè la nostra giungla, la nostra giungla è esattamente quello, che la cumbiamba, mi devi pagare il cachet. Guarda come sei vestito, Kitramos, non sei vestito questo... così floreale, hai un pantagon. Siamo a Milano, sei cool, elegante, hai la nostra giungla è quella, la nostra suggestione è quella. Comunque è stato veramente super divertente. Allora, io continuerei sulla riga dell'Istituto Italiano di Cumbia, perché il prossimo pezzo che avevamo in scaletta era proprio Cacao Mental feat. Istituto Italiano di Cumbia, e si intitola Prende la vela, cioè accendi la candela, che è quello che facciamo quando ascoltiamo la cumbia. Accendiamo la candela, diventa subito un rituale, ci mettiamo a ballarci intorno. Che va a impensar la cumbia in Marbella. Cerca del mar, bajo las cerca del mar, bajo las estrellas, prende la vela, que la cumbiamba pide candela, que la cumbiamba prende la vela, que la cumbiamba pide candela, que la cumbiamba. Cerca del mar, bajo las estrellas, en Mapalé. Dopo balliamo un po' insieme, se ti fermi, tanto mettiamo della musica carina e balliamo insieme. Ma sentite ragazzi, questo che momento è? Un momento di studio, un momento di più di show live? Marco? Sciamano Pampaluna. Un momento di lavoro comunque, anche sempre se facciamo sempre un po' di live, non, ogni tanto così per non perderci di vista. Possiamo svelare, possiamo iniziare a dire. Sì, possiamo dire. Abbiamo scritto un sacco di pezzi. Sì, abbiamo tanti. Abbiamo scritto un po'. Già. E a fine. Sì. E stiamo scrivendo a casa dello sciamano. Perché in realtà lo sciamano del gruppo è Mister Pampaluna di Dergano. Ma si era capito, il più silenzioso è quello più. Il silenzioso è il peggiore di tutti. Certo, sì. E quindi abbiamo, in realtà abbiamo occupato casa sua, l'abbiamo trasformata nel covo di Cacao Mentale ed è un luogo estremamente creativo. Abbiamo scritto un po' di cose. Un po', un po'. Un po'. E quest'anno sicuramente qualcosa inizieremo a condividerla con il resto del mondo. Sì. Troveremo a fare un format diverso, sì, cioè una roba un po' più diversa. Così. Vedremo, vedremo. Sì, sì, comunque sicuramente, butteremo fuori qualcosa. Ne sentiamo proprio l'esigenza. Una cosa su cui secondo me molti vi conoscono e vi contraddistinguono comunque sono anche le performance, vero? Cioè ci avete lavorato sulle performance? Sì, abbiamo lavorato tantissimo. Vai Marco Pampalura. Abbiamo lavorato tantissimo sulle performance. Caspita, guarda, è stato un grande contributo di Marco Pampalura. Io lo so che è un buon chitarrista e mi basta. E anche un buon amico soprattutto, cioè, per sempre. Uno sciamano che con poche parole riesce a dirti tutto. Quindi è stato buono, è stato buono. Tra l'altro proprio lui che è la nostra penna. Perché sì. Su tutta una serie di cose è veramente il migliore di noi a parlare e a scrivere. Perché noi insomma, sì. Sia io che Kit... Così. Guarda, non ci chiedere molto perché... Allora, ognuno ha un po' il suo contributo per quanto riguarda le band, cioè scriviamo insieme, suoniamo insieme, prepariamo i pezzi, capiamo come modificarli, se funzionano così. È un lunghissimo lavoro, cioè appunto anche dopo aver capito il disco poi bisogna anche capire come suonarli nei live e quindi è un altro lavoro diverso. E quindi ci mettiamo lì a suonare giorni, magari è fighissimo quando siamo giorni perché facciamo tantissime cose belle. E poi la cosa bella del live è che ogni volta è diverso, anche se come dire partiamo da una base live che è elettronica. L'elettronica in realtà è più un componente della band, non è una cosa statica, è parecchio dinamica. Abbiamo trovato un modo di modificarla e di poterci interagire e quindi paradossalmente di riscrivere le cose secondo il momento. Certo, da una grossa mano, è vero, effettivamente sempre qualcosa lì che sai come ragiona, che cosa fa durante il live. Però in realtà la cosa interessante è che abbiamo trovato questo modo di poterla suonare, di interagirci e quindi non è una base statica su cui suoniamo, c'è, non c'è, sparisce. Esatto, siete voi a domarla. Esatto. Fa fiesta. E abbiamo trovato così una chiave, che è stata una chiave in cui riusciamo a buttarci dentro gran parte della nostra arte, del nostro modo di suonare, di quella voglia di fare. Molto, molto bello. Molto bello, allora io direi che ci sentiamo l'ultimo dei tre pezzi Cacamental che abbiamo preparato in scaletta. Poi rientreremo, ci ringraziamo, ci diciamo le belle cose, ci salutiamo e poi ve lo diciamo dopo che cosa succede. Intanto vado a suonarci quest'altro pezzo che è un po' diciamo il singolo cover dell'ultimo vostro disco. A proposito, che viva la Reproduzione. Esattamente. Che c'è un anche fighissimo videoclip fatto dal Nuovo Armenia a Milano, ad Ergano, quindi sì, esatto, abbiamo visto, è vero, a vedere. Consigliamo a tutti e tutte quelli che sono all'ascolto presenti qui andare a vedere il video di questo pezzo che si chiama Reproduction di Cacao Mental. Ci ritroviamo tra pochissimo qui in diretta su astralmai.com Radio Exalgia. Yes sir. Cerca las flores, mirando las mariposas que viven en el Guayabal. Intercambiar es mis instintos. Cruzaremos laberintos, bailar hasta amanecer, poder mirar florecer y sin pedir auxilio ir de rumba pa'l navío. Con dividir los colores, cantando cerca las flores, mirando las mariposas que viven en el Guayadal, intercambiar los sabores, distribuir los fulgores, curar mi patología, contigo me acordaría. Amanecer en Tocache, tomar poción de Toloache, nadar por el Amazonas, bailar cumbia en Arizona y en el desierto de Nazca, tomarnos esa ayahuasca, mirando la astronomía sin miedo a la policía. Bebida prohibida, fluida, viajera extranjera, cruzada con fuego. Reproduzione di Cacao Mentale era l'ultima canzone nella che viva la reproduzione. Era l'ultima canzone della nostra scaletta, nella scaletta di questa puntata numero 1 di Battito Madre, Las Cumbias, qui sempre in diretta da Sabrem.com e da Exalge Milano. Quindi noi, nel ringraziare davvero con il cuore i ragazzi per aver accettato il nostro certo, invito. Non ce l'aspettavamo, non pensavamo di essere degni. Per me è stato un successo. Davvero bello, grazie. La domanda intanto è: dove possiamo trovare Cacao Mental prossimamente? Ok, allora, cioè, intanto stiamo preparando una situazione un po' molto carina per quanto riguarda Milano, ok? Perché questa è la nostra città e quindi dobbiamo divertirci e ballare tantissimo. E tanto per capire questo dovete seguire Sexy Cacao Mental su Instagram e vi invieremo ogni cosa possibile per le feste nascoste e non nascoste. Poi prossimamente sì feste aggressive ve lo dico io, raccomandato, quindi prossimamente siamo il 2 febbraio al Mercato Suonato di Bologna, ok, e poi il 17 febbraio all'Agorà. al Circolo Milanino. Cusano Milanino, quindi siamo vicino, possiamo prendere la nostra bicicletta, okay, che fa parte della giungla milanese, ok, e arrivare a Cusano Milanino, poi torniamo tutti insieme nel furgone di Cacao Mental. Bello. Sì, benissimo, allora ci vediamo tutti a Cusano Milanino in bicicletta a vedere il live di Cacao Mental. Ripetiamo la data: 14 17 festa di carnevale, 17 tra febbraio. L'altro ci vedremo un sacco. Se siete stati bravi e brave, siete qui ad Exalge, quindi vi beccherete questa chicchetta che adesso, tra poco, tra una mezz'ora abbondante, cominceranno a fare qui i ragazzi. Hanno preparato un piccolo live acustico psichedelico, è stato detto. Particolare, abbiamo selezionato alcune canzoni. Un assaggino, come abbiamo detto, tasting. Sì, un po' per ritornare sempre al battito di quello che parlavo prima, no? Capisci? Così rientriamo a essere al battito noi madre? Battito madre! Esatto. E allora, grazie Kit, grazie Stefano, grazie Marco. Battito madre torna tra un mese. E adesso stacchiamo la diretta e ci godiamo queste belle musiche. Let's start what we have come into the room to do. Please cut the fuck to do. www.askthebenny.com.